Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Allora, cara Nicoletta, ti do questa ferale notizia. Oggi è il 30 settembre, arriva l'estratto conto del trimestre. E vorrei subito invitare i nostri ascoltatori, qualora avessero ricevuto proprio stamattina, magari in realtà arriverà la settimana prossima, ma qualcuno può anche andare a dare un'occhiata sul conto online, se fosse arrivato proprio in questi minuti, in queste ore, andate a controllare, perché potrebbe esserci una bella sorpresa, e cioè qualche rincaro del costo della tenuta di questo conto. Spiegheremo a tutti i nostri ascoltatori perché stanno arrivando questi aumenti, sta arrivando questa raffica di aumenti. Intanto io devo partire con questa cattiva notizia, aggiungendoci che pure la borsa stamattina va malissimo. Mamma mia. Allora, venerdì proprio negativo. Nero. Mm. A proposito di conti, invece, una buona notizia: oggi, l'ultimo venerdì del mese, torna l'appuntamento con Salute Uomo, l'appuntamento che insegna agli uomini a fare i conti con la propria salute. Come sempre, i temi non mancano. Parleremo oggi di chirurgia robotica, di fertilità ed infertilità al maschile. E infine, l'ultima parte del programma, apriremo una nuova rubrica che abbiamo pensato di chiamare Piccolo Grande Uomo. Una rubrica fatta, come si dice, da voi e per voi, dove potete segnalarci le vostre domande, le vostre storie, le curiosità, le vostre richieste di aiuto, anche farci delle proposte, magari non indecenti o anche indecenti, vedete voi. No? Noi raccogliamo tutto. Orientate come sempre al grande tema della salute e del benessere maschile. Nel frattempo è sempre valido il nostro numero verde per fare i conti, nella prima e nella seconda parte del programma, 800 24 0024 per fare le domande in diretta. Partiamo con una veloce rassegna stampa prima di andare ai temi che vi abbiamo preannunciato. Allora, la borsa, ve lo dicevo, è già negativa, è largamente negativa questa mattina, qualche piccolo segnale di miglioramento rispetto ad un'apertura che era stata più brusca. Gli indici sono arrivati a perdere 2 punti, ma anche 2,5 punti a Madrid. Milano adesso segna -1,61, ma l'epicentro della crisi è Francoforte, che perde pure circa 1,5 punti per la grave crisi che sta travolgendo Deutsche Bank. Ne parleremo più tardi, anche nel corso dell'aggiornamento con i mercati alle 11.30. Sono proprio i titoli bancari stamattina ad appesantire particolarmente in maniera consistente, tanto per cambiare piazza affari. Ma noi adesso, per la nostra rassegna stampa, volevamo segnalarvi un evento molto importante. Sapete quanto ci stia a cuore il tema lavoro, e allora lo sapete quante imprese al femminile ci sono in Italia, quante donne in questi anni di crisi del mercato del lavoro dal lavoro dipendente sono passate al lavoro autonomo o addirittura hanno provato a fare le imprenditrici, quante donne hanno in mente di lanciare una startup, hanno una bella idea di impresa ma non hanno gli strumenti per potersi lanciare nel mercato. Allora, sono tante, tantissime centinaia. Oggi per loro speriamo di compiere un'azione utile, anticipando a tutte le candidate imprenditrici d'Italia un'iniziativa che si terrà il 10 novembre a Milano. Si tratta del Forum Nazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile, si terrà appunto qui alla sede del Sole 24 Ore. È l'ottava edizione di questo forum, e soprattutto c'è tempo prima di questo evento per candidarsi al premio Gamma Donna. Allora, spero di aver detto tutto correttamente, qualora non fosse successo ci preciserà meglio i dettagli di questa iniziativa Mario Parenti, presidente dell'associazione Gamma Donna. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e a tutti quanti. Ecco. Sì, ha detto tutto benissimo. Brava. Quindi praticamente io non sono più... No, in lei ci deve spiegare così lo spirito dell'iniziativa, come nasce, a chi è rivolto questo premio. So che è rivolto a giovani imprenditori, ma andiamo a fare il focus sulle imprenditrici. Imprenditori max 35 anni, per le imprenditrici invece non c'è vincolo di età, presidente. Esatto, noi riteniamo che le donne siano valide a qualsiasi età. No, scherzi a parte, il premio nasce proprio per passare un messaggio di fiducia, non supportato dai fatti, cioè a dire che in Italia c'è una fortissima vitalità imprenditoriale, e questo si sta verificando anche a livello di giovani e di donne, e questo secondo me non è abbastanza conosciuto. Noi intendiamo provarlo nei fatti, cioè dimostrando che ci casi esemplari, no, che riteniamo veramente interessanti. Il secondo aspetto è che, siccome quest'anno parliamo di Open Innovation, no? Sì. O innovazione aperta, è dimostrare che non è soltanto patrimonio dei giganti, delle imprese multinazionali, ma innovazione aperta è anche alla portata di piccole imprese. Questi sono i due messaggi che noi pensiamo di veicolare con questo premio. Presidente, ci fa degli esempi? Quali aziende, che tipologia di imprenditrici hanno vinto negli anni passati e che opportunità hanno avuto a seguito di questo riconoscimento? Ma la tipologia è la più aperta. Oggi, specialmente in campo di imprenditorialità femminile, abbiamo casi che vanno dalla social innovation, dalla sharing economy, no? Fino a imprese di altissima tecnologia, start-up, no? Che si misurano su tematiche veramente avanzatissime. E quindi direi che riceviamo da tutta Italia, tra l'altro, da tutta Italia, casi che sono direi molto molto, molto interessanti, molto. E devo dire che il controvalore di questo per chi partecipa è che può disporre così di una piattaforma mediatica estremamente importante. Ne guadagna in visibilità, immagino, ma credo anche in opportunità professionali, no? Contatti o che cosa come per Presidente, sì, ciò che importa per queste imprese è crearsi delle relazioni. C'è tempo per candidarsi fino al 4 ottobre, cosa devono fare ormai appunto le candidate? Sì, siamo agli sgoccioli, c'è solo il weekend. Bene, si tratta di andare sul sito www.gammadonna.it, cliccare sul premio, scaricare il modulo, compilarlo. C'è un'altra piccola aggiunta quest'anno, noi chiediamo che i candidati si facciano un selfie, un piccolo video in cui si presentano, presentano la propria attività. Questo è quanto, è abbastanza facile. Certamente. Farlo. Poi ci racconterà come è andata e quante candidature avete raccolto. Presidente dell'Associazione Gammadonna Mario Parenti, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e in bocca al lupo per il premio. Grazie a voi, saluti a tutti. A presto. Si apre l'ufficio del direttore e vedi una luce che ti prende. Lui era seduto con una finestrona dietro su un trono con l'anello della banca. Per te c'era un inginocchiatoio, ti mettevi lì. Diceva, prego, baci l'anello e poi dica cosa posso fare per lei. È un classico che noi per introdurre il tema bancario utilizziamo questo sketch ormai straconsolidato per noi del grande amico di cuore Denari, Enrico Bertolino. Allora, questo tema lo avevamo già anticipato settimane addietro. Uno degli ospiti della nostra trasmissione lo aveva fatto. Le banche che devono alimentare il fondo di risoluzione appunto bancaria per le banche in crisi lo faranno aumentando a loro volta le commissioni bancarie a carico dei clienti, a cominciare dai costi dei conti correnti. Detto, fatto, la raffica di aumenti sta arrivando e con essa tutto il codazzo di polemiche delle associazioni dei consumatori. Allora, voglio subito chiedere ai nostri ascoltatori all'800240024, ve ne siete già accorti, l'estratto conto con sorpresa è il titolo di questo approfondimento di Denari di oggi. Con noi Nicola Borsi, Plus 24 del Sole 24 Ore. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Autore di questa anticipazione di cui vi parlavo ai microfoni di Radio 24, l'ha fatta qualche settimana fa su Plus 24, già da tempo appunto veniva su segnalata. Plus 24 del 30 luglio. Veniva segnalata questa tendenza ai rincari. Anna Vizzari, Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo, buongiorno anche a lei. Buongiorno, bentornata. Grazie. Allora, prima domanda, prima di andare ai suggerimenti per chi è in viaggio, la nostra prima pausa. Allora, questa raffica sta arrivando. Nicola, che monitoraggio presentate sabato domani su Plus 24? Abbiamo dedicato questo tema che, ripeto, è stato individuato per primi da Plus il 30 luglio ed è stato ripreso poi anche il 27 agosto e ne abbiamo parlato anche qui a Cuore Denari il 5 settembre. Abbiamo dedicato questo tema al fondo di copertina perché è un tema molto sensibile. Sono anni che le polemiche sui costi dei conti correnti bancari in Italia infuocano l'ambiente con contrasti anche molto pesanti tra l'associazione bancaria e le associazioni dei consumatori. Banca d'Italia monitora da alcuni anni con una sua indagine il costo. Spieghiamo quali sono le regole alle quali le banche si devono assolutamente attenere nella comunicazione di queste proposte di variazione del costo. Perché il tema è proprio questo, che forse non tutte hanno adottato questo spirito di trasparenza in questo frangente. Non è una questione di trasparenza. Diciamo che in questo momento le banche, i gruppi bancari che risultano aver applicato delle condizioni più pesanti sugli oneri di gestione del costo sono tre, sono il gruppo UBI, il Banco Popolare e Unicredit. Non a tutti i conti, per tutta una serie di ragioni e poi racconteremo perché. Esatto, non a tutti i conti. Bisogna ricordare agli ascoltatori che non si tratta di una imposizione, a differenza di quello che dicono le associazioni dei consumatori, non si tratta di una tassa. Si tratta di una proposta di variazione contrattuale entro la quale, come prevede il testo unico bancario, i clienti hanno la possibilità di rispondere disdettando il vecchio conto che diventa più costoso, ovviamente dopo averne scelto uno meno costoso, e applicando all'uscita dal vecchio conto le stesse condizioni, le stesse regole che valevano in precedenza. Ecco perché abbiamo titolato Conti correnti, il trasloco che conviene. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio e poi pronti anche a raccogliere i vostri casi all'800 24 0024, ma anche al 349 238 6666. A tra pochissimo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Cuore e denari. Allora, stiamo parlando questa mattina di un tema del quale per la verità molti ascoltatori si sono già accorti, stanno arrivando dei rincari per quello che riguarda la tenuta appunto del conto corrente. Le banche giustificano questi rincari con il fatto che stanno alimentando il fondo di risoluzione appunto bancaria, quello strumento che è stato predisposto quasi un anno fa, Nicola Borzi, quando è entrato in vigore quel provvedimento che praticamente ha gestito la risoluzione delle famose quattro banche in crisi, le quattro casse popolari, la Banca Marche e quant'altro, Etruria eccetera. Allora, abbiamo parlato però in particolar modo di tre banche che stanno adottando questa politica di repricing, perché esatto, Così istituzionalmente la chiamano, e magari spieghiamo quali sono le tre banche. UbiBanca, che sta provando anche a comprarsi le bad bank, una parte delle quattro bad bank alla cui risoluzione ha contribuito e cui costi vengono traslati sui correntisti. Il Banco Popolare, che sta andando a matrimonio con la Popolare di Milano, esatto, Aumento di capitale. Grosse... E Unicredit, che sta preparando un piano industriale molto rilevante, sta dismettendo asset imponenti per ridurre le dimensioni dell'aumento di capitale che deve realizzare, e quindi è nel procinto di, come dire, realizzare una rivoluzione affidata anche al nuovo amministratore delegato. Anna Vizzari, che cosa segnalano gli associati di Altro Consumo? State già ricevendo anche voi le prime segnalazioni / denunce di queste situazioni? Dov'è Anna Vizzari? Eccoci qua. Sì, perché in questi giorni stanno arrivando le comunicazioni ai clienti che le banche sono obbligate veramente a inviare in base all'articolo 118 del testo unico bancario, quindi comunicazioni in cui viene indicata la variazione economica che avverrà fra due mesi sostanzialmente, quindi 60, sappiamo che il testo unico prevede un preavviso di 60 giorni. In questi 60 giorni ricordiamo a tutti che c'è la possibilità di chiudere il conto corrente alle vecchie condizioni, quindi per esempio nel caso del Banco Popolare che comunica l'introduzione di spese di liquidazione che potrebbero arrivare addirittura a 25 euro, esatto, che è stato il caso più clamoroso, ovviamente non avrà l'applicazione di queste spese fisse di liquidazione, avrà l'applicazione delle vecchie spese. Devo aggiungere che al di là poi del salvabanche, comunque ci sono anche delle banche che hanno aumentato i costi per altri provvedimenti di natura europea. Le dico infatti, sul mio conto online di una delle tre banche citate prima, che pagavo un euro al mese, in realtà ho già notato da qualche mese l'aumento a 1,40 euro delle spese di gestione di questo conto. Quindi sì, Lei mi dice che qualcuna sta comunicando per aumenti che farà e lì possiamo eventualmente disdettare il contratto eccetera, ma per chi l'ha già fatto senza comunicarci nulla, a meno che allora, io non abbia perso la comunicazione. Se non hanno rispettato la comunicazione di cui parlavo prima, queste variazioni non sono valide, quindi in realtà ci sono tutti gli estremi per fare un reclamo e chiedere un rimborso. Però magari, mi sento di dire, magari la comunicazione è arrivata e non la si è letta, non lo so, magari era legata all'estratto conto trimestrale. Infatti uno dei problemi è questo, e per questo noi ne parliamo anche sul nostro sito questa mattina. Molto spesso non ci si rende conto che ci saranno le variazioni, perché non si guarda la documentazione che arriva alla banca. Cosa dobbiamo andare a guardare allora, Vizzari? Andiamo subito al punto della situazione. Allora, arriva l'estratto conto, che è già un documento col quale non abbiamo tanta confidenza, non riceviamo volentieri, in genere ci viene il coccolone. Soprattutto adesso che arriva quello dopo le vacanze, figuriamoci, sarà in rosso più che più rosso non si può. Cosa dobbiamo andare a guardare? Allora, di solito, proprio in concomitanza all'invio dell'estratto conto, la banca allega anche una comunicazione di variazione delle condizioni economiche. Quindi se abbiamo scelto l'invio online ci arriverà una mail, se abbiamo scritto, abbiamo ancora l'invio cartaceo ci arriverà una comunicazione cartacea insieme all'estratto conto con su scritto comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni economiche del conto numero. E lì la parola era... unilaterale già deve... Esatto. Sì, una proposta esatto. più che una comunicazione. Esatto. Esatto, e lì sostanzialmente la banca spiegherà il perché, motiverà in qualche modo il perché di questo aumento, e per questo motivo che adesso sappiamo che alcune banche hanno aumentato i costi, perché appunto legato al fondo di risoluzione e ai contributi che hanno versato, perché appunto è uno dei giustificati motivi che stanno utilizzando per, nelle comunicazioni per informare i clienti certo. dell'aumento che avverrà. Quindi questo fondo di risoluzione lo stiamo praticamente alimentando noi correntisti, Nicola, sì, adesso c'è la sintesi. Esatto, non solo il fondo di risoluzione, ma anche il fondo interbancario di garanzia dei depositi, che è un'altra delle causali che sono state indicate da alcuni istituti per l'aumento. Va detto che ci sono delle decisioni dell'arbitro bancario finanziario che sono molto chiare, e da queste fa riferimento Banca d'Italia quando ieri si è espressa attraverso il proprio ufficio stampa dicendo che loro monitoreranno in maniera continua il rispetto delle regole sulla comunicazione dei rincari alla clientela. Queste regole dell'arbitro bancario finanziario impongono che per essere valida la proposta di aumento delle condizioni indichi con chiarezza quali sono le motivazioni alle quali questo aumento è legato, e cioè devono essere non soltanto comunicate con chiarezza, ma devono essere pertinenti al prodotto o servizio bancario del quale si va a aumentare il costo. È chiaro che per quanto riguarda il fondo di garanzia dei depositi c'è un rapporto diretto, ma il fondo di risoluzione ha un rapporto diretto con i conti correnti di questi clienti, certo. di queste tre banche? Qui è il punto di domanda. E qualcuno dovrebbe forse dirlo con chiarezza. Peraltro stavo pensando anche, il fatto che tutte le banche adesso si muovano congiuntamente forse non richiede anche magari un intervento dell'autorità garante del mercato a chiarimento di questa situazione? Non è un aumento, devo dire che non è un aumento congiunto, un cartello, in quanto non è concordato, quindi non credo che nessuno possa dimostrare l'esistenza di un cartello. Io però rilevo un'altra cosa, domani entrerà in vigore il nuovo decreto sull'anatocismo bancario, sì. che prevede tra l'altro una doppia comunicazione da parte dell'istituto, della quale parla oggi il Sole 24 Ore nell'apertura delle pagine di Norme Tributi, e sulla quale anche Plus 24 domani si eserciterà per spiegare esattamente a tutti coloro che hanno problemi di conti e di costi quali sono le nuove regole che entreranno in vigore e soprattutto come bisogna comportarsi per limitare o addirittura azzerare le ricadute dell'anatocismo. L'anatocismo, parola difficile, spieghiamola. È quel perverso meccanismo che... È il perverso meccanismo per cui gli interessi generano altri interessi, che finora era vietato. Poi c'è stata una delibera del Comitato Interministeriale Credito e Risparmio, e per ottemperare alle previsioni di questa delibera il governo ha emanato un decreto. Allora, per tutto questo vi rinviamo l'appuntamento con Cuore Denari solo fra pochissimi minuti. Intanto 800240024 per le vostre domande e racconti. C'è Luca da Roma pronto a vivacizzare la nostra trasmissione non appena torniamo, tra pochissimo. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? Piantala, Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Dal 1 ottobre su Radio 24, tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. E ritorniamo in diretta, ancora qualche minuto di tempo dedicato ad un argomento che praticamente ci interessa a tutti, perché chi di noi non ha un conto corrente? Allora, molti di noi, quelli che hanno monitorato l'estratto conto che sta arrivando proprio in questi giorni, avrà notato qualche rincaro arrivato qualche settimana fa per la gestione, appunto, per le spese di tenuta di questo conto, o quantomeno qualcuno avrà ricevuto invece una comunicazione dalla banca in cui si anticipa un rincaro che arriverà. Tutto questo merito, tra virgolette, colpa del fatto che le banche italiane settimane stanno alimentando il cosiddetto fondo di risoluzione proprio per in qualche maniera gestire eventuali nuove crisi bancarie. Questo fondo è stato istituito quasi un anno fa proprio in concomitanza con la risoluzione delle famose quattro banche in crisi: Banca Etruria, Banca Marche, Cari Chieti e Cari Ferrara. E allora come gestiamo adesso queste sorprese? Se ne occupa domani Plus 24 del Sole 24 Ore, se ne stanno attivamente occupando anche le associazioni dei consumatori, perché il tema è: sono variazioni contrattuali appunto unilaterali, ci possiamo difendere, le possiamo rifiutare, cosa si può fare? Oltre al reclamo si può naturalmente anche cambiare conto, perché a patto però, Nicola Borsi, che si trovi sul mercato qualcosa di vantaggioso in questo momento, perché se tutte più o meno si orienteranno all'aumento delle spese di tenuta dei conti correnti, forse qualche volta cambiare non varrà neanche la pena. Ma no, secondo me, e non solo secondo me, secondo Banca d'Italia, cambiare e cambiare anche abbastanza spesso, magari rimanendo sempre nello stesso istituto ma prendendo un nuovo conto, vale molto la pena. Secondo le statistiche di Banca d'Italia sui conti correnti, che sono le ultime, sono riferite al 2014, sui costi, i costi dei conti aumentano con la loro anzianità. I conti, ad esempio, di 10 anni hanno dei costi che sono superiori del 30, del 40, a volte anche di più, per cento dei conti aperti da 1-2 anni. Il motivo è molto semplice: i vecchi conti non avevano, ad esempio, l'opzione dell'internet banking. Oggi con l'internet banking puoi fare praticamente tutto da casa, non devi andare in filiale. Ricevi anche sull'internet banking le comunicazioni. Esatto, perché qualcuno dice che non la riceve. No, sicuramente magari ha un conto web e la comunicazione è stata ricevuta nella sezione comunicazioni del sito, ma molto probabilmente non l'ha aperta. Esatto, non ci si va a guardare. Allora, sentiamo Luca da Roma, poi torno da Anna Vizzari di Altro Consumo. Luca, benvenuto. Buongiorno Enrico, buongiorno Debra. Io sì, sono anche un forte lettore di Plus 24, tanto che purtroppo fortissimo. Un paio di volte all'anno vengono anche pubblicate le mie lettere di protesta, che ottengono anche un certo effetto. Lei è l'incubo delle banche e delle assicurazioni, Luca. No, allora, spero che siano le banche a avere l'incubo mio. Infatti, allora comunque, ci dica. Io volevo segnalare questa cosa. Io sono un cliente di Unicredit, sì, e ho un conto che si chiama Genius First, che è uno di quelli che hanno gli aumenti. Esatto, è aumentato di 3 euro dal 1 luglio. Io di questa cosa sono consapevole, perché io opero solamente attraverso un banking e quindi ogni settimana mi controllo il conto corrente, quindi me ne sono accorto praticamente subito. La cosa che a me dà particolare, la comunicazione ce l'aveva Luca? Allora, ha notato, è questo: io ricevo ovviamente tutto in formato elettronico, solo documenti PDF. Di solito mi arriva una notifica e la vedo sul cellulare o comunque sulla mail. Lei dice: stavolta non ci sarà stata? Allora, la comunicazione, io a posteriori, avendo visto l'aumento dal 1 luglio, sono andato a vedere sui documenti online e guarda caso la comunicazione c'era, tipo il 5 aprile, giustificata col fondo di risoluzione interbancario, ma io non ho mai ricevuto la notifica, me la sono andata a ripescare io. Quindi, certo, guarda caso, è l'unico caso in cui non l'ho vista come notifica che mi è comparsa sul cellulare. Certo, questo poi la banca le potrebbe dire: ma no, noi l'abbiamo mandata, sarà stato un problema del suo telefono, eccetera. Detto questo, lei cosa farà, Luca? Adesso, a parte 3 euro non ci cambiano la vita, noi stiamo parlando proprio di una condizione generale, di una situazione di principio. A me dà fastidio la modalità in cui non mi è stato comunicato. Ecco. Anna Vizzari, comunque è tutto compreso, quindi no, diciamo meglio, lei non è stato avvisato che le avrebbero comunicato, perché in realtà però un avviso della comunicazione in questo caso. Si tratta dell'avviso che arriva alla comunicazione. Adesso non vorrei neanche far passare il messaggio che dobbiamo pretendere tutto. Se è un servizio, quello dell'alert via SMS è un servizio che tra l'altro le banche a volte si fanno anche pagare. Ecco, Anna Vizzari, cosa le dice il caso di Luca da Roma? Allora, l'unico modo per non subire tutto questo, naturalmente, mi pare di capire, è o andare a chiedere conto della banca di questo comportamento, eventualmente rinegoziare, se si è nelle condizioni di farlo, un ritorno indietro rispetto alle nuove condizioni contrattuali, o al limite cambiare banca. Qualche consiglio utile su questo? Sul cambiare banca, sicuramente quello che io consiglio è di verificare periodicamente le condizioni del proprio conto, perché purtroppo quello che è stato raccontato prima non è un evento così raro. Molto spesso, proprio soltanto quando si dà un occhio al conto corrente, ci si rende conto di quanto sono aumentate le condizioni, che magari al momento dell'apertura erano ottimali. Conti che sembravano a costo zero poi improvvisamente risultano essere anche costosi fino a 100 euro l'anno. Allora, detto questo, quindi io consiglio sempre di ma fare... Ma ci sono ancora dei conti che costano così tanto, Anna Vizia? Beh, vediamo anche dei conti che costano anche 350 euro. Cioè, nella nostra classifica... Ma sono conti proprio i cosiddetti conti ordinari. Ecco, sì, ma sono corretto. Di famiglie normali, di persone normali, sì, sì. O magari sono oh, di sì, che sì, so, sì, imprenditori che hanno un'operatività molto alta. Conti che costano anche 30 euro al mese. Sì, esatto. Ma corretto. Chi è che non si accorge che paga 30 euro al mese di una, un anziano? Cioè, lo sono so. Persone che probabilmente valutano in maniera un po' passiva il loro rapporto con la banca, quindi comunque si fidano di quello che arriva dalla banca e non fanno nessuna verifica. Quindi per questo motivo consiglio sempre di verificare come si utilizza il conto, di individuare il proprio profilo di utilizzo e di fare delle comparazioni, perché sul mercato periodicamente appaiono sicuramente dei prodotti più convenienti. Certo. E quindi per esempio noi sul nostro sito altoconsumo.it abbiamo un servizio di comparazione che serve proprio a questo, da una mano fa fare dei confronti in maniera molto rapida. Consiglio quindi di fare una verifica e di cercare delle condizioni migliori. Ricordo anche che c'è una legge che dà la possibilità di avere il trasferimento del conto in 12 esatto. giorni lavorativi, una legge certo che non è molto pubblicizzata ed è difficile farsi applicare, ma che comunque è bene insomma ricordare per far valere. Abbiamo fatto con lei tante puntate sulla modalità di trasferimento facile di un conto corrente, sì. Ma secondo lei ci sono delle banche che ottemperano a questa norma in maniera così letterale, che lo fanno in 12 giorni? Ci sono dei comportamenti così virtuosi, Vizzari? Allora, in alcuni casi sì, cioè nel senso abbiamo visto che dei conti che comunque non hanno delle operazioni molto complicate, sicuramente dei conti che non hanno tipo la carta di credito o il deposito titolo di collegati vengono trasferiti rapidamente. Ci sono anche delle banche che stanno utilizzando questa modalità di trasferimento veloce come approccio pubblicitario, quindi per attirare nuovi clienti. Quindi io consiglio sempre di far valere i propri diritti e quindi almeno di parlarne allo sportello quando si va ad aprire il nuovo conto. E poi è vero, manca ancora un tassello legislativo, perché manca il famoso decreto del Ministero che dovrebbe fissare gli indennizzi in caso di ritardi. Noi da parte nostra continuiamo cioè manca a chiedere da più di un anno, esatto, perché da l'ultima volta anno. L'ultima volta che abbiamo fatto questo argomento sicuramente è stato un anno fa, Vizia, e lei ci segnalava che mancava proprio ancora questo tassello. Quindi manca, noi continuiamo a chiederlo, prima o poi qualcosa si muoverà, speriamo, esatto. Però appunto magari, è giusto parlarne. Se gli si dà l'opportunità di farlo pagare ai correntisti, sicuramente anche questo fondo per gli indennizzi arriva. Nicola? Io volevo segnalare che su Plus 24 domani parleremo anche di molte altre questioni, due in particolare: l'inchiesta di copertina sulla bolla dei bond a rendimenti negativi, 8.000 titoli per 13.700 miliardi di euro che sono esposti a variazioni dei tassi con rischi di shock pesanti, e poi un tema che sta diventando molto importante: la legge dopo di noi, le agevolazioni per chi investe per figli o per eredi comunque disabili. Grazie Nicola. Allora, c'è qualche domanda su WhatsApp, sì, Nicoletta, ci sono carina, sui considerazioni conti. Soprattutto Damiano ci scrive tanti messaggi: il vero problema delle banche, e aggiunge anche delle compagnie telefoniche, che fanno cartella aumentando tutte insieme i costi di base, o spesso ti fanno offerte per il cambio conto per poi avere dopo certo. pochi mesi una variazione unidirezionale con aumenti discriminati. Allora, ditelo palesemente. No, l'abbiamo già detto. L'importante, allora, questo è il mercato, le aziende si sottraggono clienti come meglio possono, qualche volta anche al limite della scorrettezza commerciale, per pratiche commerciali scorrette tra società, utilities, compagnie telefoniche e banche, anche vengono multate praticamente ogni 2x3, Nicola, per cui il tema è saperlo che fanno questo e quindi adottare tutti gli strumenti necessari per potersi difendere, sì, e gestire. È quello che gli anglosassoni definiscono votare con i piedi, che non significa votare male ma utilizzare un po' i piedi, come è successo con la Brexit, esatto, cioè. Ma quello che è successo anche con i mutui, con i vecchi mutui e con le surroghe, utilizzare la surroga o la possibilità, come dire, di uscire da un vecchio contratto a condizioni gratuite per ridurre i costi, utilizzando la possibilità di avere nuovi contratti a condizioni più vantaggiose. Terremo naturalmente sotto stretta osservazione ancora questo argomento, aspettiamo di avere tutti gli estratti conto in possesso delle famiglie italiane e poi magari, se necessario, ci ritorneremo su questo argomento. Nicola, grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie Anna Vizzari, buona giornata. Buona giornata, grazie. L'uomo per me, l'uomo per noi, Deborah, l'uomo giusto per noi, che è tornato l'ultimo venerdì del mese, con molto piacere, il nostro professor Andrea Salogna, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e responsabile scientifico del progetto Salute Uomo di Cuore Denari. Andrea, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto Andrea, in questa settimana, a proposito di uomini, abbiamo avuto festeggiato 3 compleanni importanti. Prima Totti, con i suoi primi 40 anni festeggiati tra pizza e porchette, una festa sontuosa a base di caviale e smoking, aggiungerei, tutti in dress code rigidissimo. Belli, sì. Andrea? Sì, bellissimi. Bellissimi. Lei più di lui, molto bella. Dipende dai punti di vista, perché certo, anche lui non è male. Poi è stato il turno del ragazzo fortunato, Giovanotti, che ha soffiato su 50 Questo candeline. Questo mi sta molto simpatico. E poi chiudiamo con gli 80 anni di Silvio Berlusconi. Anche lui, festeggiamolo. Allora, dopo che abbiamo fatto gli auguri, allora diteci anche quanti anni avete voi e ti dirò, anzi il professor Salogna vi dirà che attenzione, precauzione dovete avere per arrivare al prossimo traguardo, belli, freschi, come si dice delle rose anche degli uomini, come dei tulipani, dai. Allora, sì. Ma iniziamo con i temi di oggi. Allora, robot, ne avete mai sentito parlare sicuramente, e potete leggere, poi di questo poi è famosissimo, noi parliamo di un altro robot, c'è una splendida editoriale di Andrea Salogna che invitiamo a leggere anche un video. Ma nella medicina sapete che cosa possono fare, quante cose possono fare i robot e che cosa soprattutto potranno fare in futuro? Il robot è molto gentile, direi, con la salute maschile. Estremamente gentile, e se vogliamo è oggi quella che più di tutte tra le varie forme di, possiamo dirlo, chirurgia, mm-hmm, è richiesta dal malato, ed è una forma diversa di approccio alla medicina che deriva dal fatto che tutta la scienza medica, che è ovviamente prona al poter aiutare le persone, è in parte richiesta dalle persone stesse, che è un po' una rivoluzione da un punto di vista dell'approccio e del rapporto medico-paziente. È sempre più spesso vero che un paziente arrivi in ambulatorio con un problema più o meno rilevante e che chieda: ma questo possiamo operarlo, possiamo gestirlo con il robottino? E da qui la correlazione con il famoso Goldrake della sigla UFO Robot di cui abbiamo parlato prima. Ecco, c'è il robottino, ma il medico è sempre presente, cioè non è che opera, magari uno pensa lo facciamo operare dal robottino. Sai che c'è il robot advisory anche nella finanza, e tutti pensano che i consulenti finanziari saranno nel lungo termine. Esatto, in realtà non credo non che è sarà così possibile. La definizione di Nicoletta, il robot è gentile, è assolutamente pertinente. Se vogliamo pensare, io ho in mente in questo momento il famoso robottino da cucina della mia mamma, mm-hmm, che fondamentalmente non ha sostituito la mamma, no, perché al di là del fatto che gli ingredienti fossero messi dalla mia mamma all'interno del suo robottino, questo era comunque controllato nel suo fare dalla mamma stessa, e alla fine la torta e la crostata e quant'altro era espressione dell'uno e dell'altro. Questo è importantissimo in medicina, cioè oggi abbiamo a disposizione una risorsa eccellente e assolutamente innovativa, che è la chirurgia robotica, al maschile in particolare, perché oggi nella più parte dei centri italiani rilevanti la possibilità di trattare una delle patologie più importanti, ne abbiamo parlato tantissimo, il tumore alla prostata, è tipicamente gestita dalla chirurgia robotica, e ci sono fior fiori di generazioni di nuovi chirurghi che si chiamano chirurghi robotici che operano mediante un robot. La differenza però, ed è bello sottolinearlo, ecco, i vantaggi quali sono? I vantaggi sono legati al fatto che il robot è preciso, ma è preciso perché al di dietro del robot c'è la mente dell'uomo, per cui da un punto di vista pratico il chirurgo che si ponga davanti a quella che è una vera e propria console, immaginatevi i giochi degli anni 80 dove ci si metteva davanti a dei parallelepipedi con delle manopole che si venivano a gestire, la stessa cosa. Qual è però la differenza? Che queste manopole sono capaci di permettere all'operatore, al chirurgo robotico, una manualità con una visione tridimensionale. Perciò la mia prostata non apparirà più solo come un foglio piatto, ma apparirà come un organo tridimensionale che può essere approcciato, può essere rimossa con una precisione, un'accuratezza che è ancora superiore a qualunque forma di accuratezza le mani semplici, pur nella loro eleganza, avrebbero mai potuto fare. Questa visione tridimensionale permette in linea di massima al paziente due grandi vantaggi. In primo luogo un minor, se vogliamo, sanguinamento intraoperatorio, ma una più rapida ripresa, e questo nell'economia della salute rende ragione del fatto che nell'immediato postoperatorio gli uomini siano più facilmente dimissibili dall'ospedale, non perché si voglia mandarli via, ma perché stanno meglio e in tempi molto più rapidi. Cosa è la prostata? Dunque sì, la prostata è facile. Ecco, dice sì, di donna molto prostra in una prostata. È la sua ascia, insomma, ecco, dunque dicevo che è una posizione, donna in stato di adorazione. No, ecco, mi sovviene, è un dolce, lo faceva anche mia mamma, è la prostata di, si può fare di metilo, di per... ecco, è l'imperatore romano, e l'eresiarca bizantino, Giuliano la prostata. Deborah, dopo Bertolino con i conti, un classico, no? Fantozzi con la prostata. Con la prostata della mamma. Noi torniamo sul tema perché oltre a aver così individuato bene che la prostata è un organo... È un target assolutamente ideale per questa chirurgia. Per la chirurgia, sì, ma... Che non si limita a questo. Come Goldreck e tutti i suoi fratelli facevano tante cose, la chirurgia robotica è prevalentemente dedicata alla prostata ad oggi, ma può essere utilizzata per il rene, per molte altre patologie, per altri organi, non solo al maschile, ma molto spesso al maschile. Noi torniamo anche sul tema perché qualche giorno fa sono stati presentati, li avete sentiti, abbiamo avuto il piacere di darli in anteprima, i numeri del cancro in Italia, il censimento ufficiale proprio che fotografa l'universo cancro in Italia grazie al lavoro dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dell'Associazione Italiana Registri Tumori, dati che il professor Pinto ci aveva appunto commentato e che sottolineano una diminuzione dei nuovi casi di tumore nel 2016 per il genere maschile, in particolare delle neoplasie di polmone, prostate, colon retto e stomaco. Andrea, questa è sicuramente una buona notizia che dimostra che la prevenzione e la diagnosi quando è precoce può portare sicuramente a dei risultati molto buoni in termini di sopravvivenza e di qualità di vita. Sì, questo dato è a mio avviso di enorme importanza perché certifica il concetto della rilevanza di quella che noi chiamiamo prevenzione primaria, cioè la prevenzione che è fatta di tutti quegli atti che vengono ben prima che la malattia si sviluppi. Siamo soliti pensare che si faccia prevenzione andando a fare banalmente un esame del sangue che ci dica sì, no, c'è il tumore o non c'è il tumore. Certo, quella è prevenzione che posso fare nell'immediatezza, laddove io voglia prendere la malattia nella sua fase più precoce, ma è prevenzione già secondaria, nel senso che io ho già la malattia. Prevenzione sarà primaria quando ancora metto in atto tutte quelle metodiche che mi permettono di ridurre la probabilità che la malattia insorga. Oggi, purtroppo, possiamo solamente farlo in un certo ambito. Banalmente si è tantissimo parlato, ricordatevi solo l'anno scorso di Expo, di quanto la dieta fosse correlata alla salute. Oggi io non mi permetto di parlare per patologie che non mi sono proprie, tipo il tumore del polmone, ma per il tumore della prostata sono stati moltissimi gli studi che hanno cercato di correlare una dieta adeguata a una riduzione dello sviluppo della malattia medesima. Non sempre con successo. Quello che è certo è che tutti i dati sembrano sottolineare come una buona dieta mediterranea sia protettiva a tutto tondo. Abbiamo Antonio che ci chiama da Matera, splendida città, spettacolare. Io sono stato recentemente nel Sasso Barisano, penso una delle emozioni più grandi degli ultimi 10 anni della mia vita. Meraviglioso, meraviglioso. Antonio, fortunato. Buongiorno. Non posso che concordare col professore. è una vita che ci siamo e quindi è una città meravigliosa. Antonio ha accettato, ha accolto un po' il nostro invito. Abbiamo detto agli ascoltatori, sì, ci sono stati dei compleanni famosi. Diteci anche quanti anni avete appena compiuto, compirete, e il professor Salogna vi darà anche delle indicazioni per arrivare al prossimo traguardo in forma spettacolare. Antonio. Grazie, grazie per la possibilità che ci date. Senta professore, io ho 63 anni, normalmente ogni 3-4 mesi dono il sangue e quindi tiriamo via tutte le analisi, però è successo che le ultime due volte non mi hanno eseguito il PSA, adducendo come scusa, ma sa, il PSA non sempre l'abbiamo fatto l'altra volta, oltre a tutte le precauzioni. Si cerca di tenere sotto controllo la pressione, sì, il PSA, l'alimentazione. Che c'è qualcosa di particolare che possiamo fare per fare più tranquilli? Ha... Oltre all'alimentazione, certo, quella nostra lucana mediterranea. Allora Antonio, lei resti lì. Abbiamo un appuntamento. I mercati che oggi vanno controllati rigidamente. E poi torniamo naturalmente con i consigli e gli aggiornamenti. Certo. Dalla ricerca anche da Andrea Salogna. Che devo dirvi, a tra poco, continuate a seguirci. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Siamo tornati insieme a Cuore e Denari, ultimo venerdì del mese, l'appuntamento dedicato alla salute dei nostri ascoltatori. Dei nostri ragazzi. Salute uomo in studio con noi, Andrea Salogna. L'edizione di quest'anno si arricchisce di una rubrica che abbiamo chiamato Piccolo Grande Uomo, in cui vogliamo raccogliere le vostre storie, le vostre richieste di aiuto che diventeranno protagoniste di una parte della trasmissione. Potete come sempre mandarci i vostri SOS oppure magari i vostri consigli a cuoredenari@radio24.it, la vostra storia sarà selezionata, naturalmente vi avvertiremo e diventerete protagonisti del nostro appuntamento. Andrea, l'amico di Matera, 63 anni, ha accolto il nostro invito a così darci un po' le coordinate, quindi la sua età, che cosa deve fare, e ci raccontava che il suo medico non gli fa fare regolarmente il PSA, è un marcatore organo specifico che è stato oggetto di ampie polemiche nella comunità scientifica a favore e contro il PSA della discordia. Esatto. Adesso le idee sono più chiare? Ma sono molto più chiare, allo stesso tempo sono confuse, ma il dato significativo è che è l'unico vero biomarcatore dell'uomo, nel senso che la prostata è tipicamente maschile, si può ammalare, il PSA è una spia, una sorta di finestra che illumina un determinato organo. Non per forza di cose, valori alterati del PSA esprimono patologie brutte, patologie tumorali, ma è sempre importante tenerlo in considerazione. Il valore ottimale qual è? È difficile dirlo. Esiste ad oggi una tendenza a considerare valori ottimali in funzione dell'età. Banalmente, il nostro Francesco Totti, che compie 40 anni, quando noi iniziamo l'avventura di Salute Uomo, avevamo il compleanno di un altro grande calciatore, Juventino, che andò in Cina, in India per primo in realtà. Bene, il concetto reale è che a 40 anni mi devo aspettare di avere un PSA sotto un nanogrammo millilitro, e quindi il valore che viene usualmente riportato dai laboratori, 4, per un quarantenne non è neanche da prendere in considerazione. Perché uno è importante? Perché la probabilità che l'uomo di 40 anni che ha un PSA sotto 1 nei successivi 25 anni abbia un tumore significativo è bassissima. È ovvio che ad un uomo di 63 anni difficilmente corrisponderà un valore pari a 1 sotto 1. È più facile che, anche solo per l'ingrossamento del volume prostatico, il PSA salga. La polemica nasce dal fatto che tutte le ricerche tendevano a sottolineare come, facendo troppe diagnosi di o meglio, troppi esami di PSA, si andassero a diagnosticare dei tumori prostatici che tumori erano, pur non essendo cattivi, cioè le persone non sarebbero morte di quel tumore. Oggi quello che sappiamo è che non è sbagliato fare una diagnosi, è errato trattare male. Quindi esistono diverse forme che intendiamo chiamare terapie curative, tra le quali una forma importantissima che si chiama sorveglianza attiva, cioè quella forma per cui io monitoro costantemente il valore del PSA e al pari vado a ripetere delle biopsie a chi abbia un valore di tipo istologico, cioè delle cellule che siano cellule tumorali. Non per forza di cose dovrò andare ad operare, a trattare o con ormoni piuttosto che con radioterapia, con chirurgia, dei piccoli topini. Questa è la vera differenza. È utile fare diagnosi, quindi fare prevenzione secondaria, ma da un punto di vista pratico, non per forza di cose tutti devono essere trattati allo stesso modo. 800 24 00 24, non ci siamo ricordati di dare il nostro numero verde, le nostre coordinate. E chiamano infatti, lo stesso. Infatti vogliono molto bene. Alessandro da Genova, figurati se non lo conosceva il numero. Alessandro, benvenuto. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Volevo solo rubare un secondo velocissimo. Tre domande. Cioè, io un anno fa ho avuto una prostite, un'infiammazione alla prostata, e adesso vabbè, sto meglio così. Però tre cose. Uno, la prostata può portare una parziale impotenza, perché da quella volta lì non so se fisicamente o psicologicamente con la mia compagna ho dei problemi. Due, può portare bruciore, perché a volte ho del bruciore proprio lì sotto dove c'è la prostata, anche lì non so se poi è legato allo stress oppure veramente la prostata che magari si rinfiamma a periodi. Adesso avrò la visita la prossima settimana di controllo. E tre, se su Genova servisse un andrologo, come si fa a scegliere un andrologo, perché io non so chi rivolgermi, cioè. grazie, questo dimostra. Alessandro ci racconta quanto può essere utile una trasmissione, un appuntamento questa, come questo. E la ringraziamo molto, Alessandro. Se posso partire, di base è estremamente frequente avere in fenomeni di tipo infiammatorio che si chiamano prostatiti. Le prostatiti possono essere su base infettiva, cioè c'è un germe che si è indovato all'interno della prostata e ha scatenato il pandemonio, oppure su base non infettiva. È facile che ci sia bruciore, soprattutto quando l'infiammazione tende a cronicizzarsi, ed oggi è stato addirittura coniato il termine di dolore pelvico cronico, chronic pelvic pain syndrome, che vuol dire io non ho una patologia di tipo infettivo tale per cui devo usare un antibiotico per gestire il mio bruciore, ma il bruciore purtroppo deriva da uno stato di sofferenza della prostata stessa. Seconda risposta, è purtroppo possibile che ci sia una compromissione della qualità della funzione sessuale in toto, dello stato di benessere sessuale, anche e soprattutto di due ambiti, qualità dell'erezione e qualità dell'eiaculazione. È più facile che anche soggetti giovani abbiano difficoltà di erezione, quindi difficoltà di rapporti, come pure bruciore al momento dell'eiaculazione. Non trascurate di non spaventarvi se mai nell'eiaculato ci fossero delle tracce di sangue, che sono spesso presenti in chi abbia avuto una prostatite, ci siano stati segni di infiammazione cronica, ad esempio la presenza di piccoli calcoli o di depositi di sali di calcio all'interno della prostata, tali per cui piccole rotture di vasi al momento dell'eiaculazione causino emospermia. Questo è il termine scientifico. Per quanto riguarda invece la figura di andrologi a Genova, deontologicamente non gliene potrò identificare uno, ci sono dei valenti colleghi. Voi avete almeno due grandi ospedali genovesi, il primo San Martino, l'altro il Galliera, lì lavorano persone per bene. Allora, grazie per le risposte mirate e concise di Andrea. È tempo di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. E attenzione, sono arrivati tanti messaggi per chiedere: ma passare ore e ore alla guida può avere... E generalmente fanno un lavoro particolarmente sedentario, ma indubbiamente chi svolge una professione come il camionista, l'agente di commercio... Del camionista abbiamo parlato, abbondantemente. Ultima... Restate, perché... Anche questa è stata una domanda che proprio un taxista ha posto ad Andrea Salonia, riconoscendolo dalla voce, come il nostro esperto di salute uomo. Incredibile. Ci torniamo. È successo così. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta... cuore e denari. Ultima parte della trasmissione in cui facciamo i conti con la salute al maschile e in questi minuti di chiusura vorremmo lanciare la nostra nuova rubrica. Vogliamo raccontare un po' l'idea, Andrea? L'idea nasce dal cercare di calare il più possibile la nostra bella rubrica Salute Uomo all'interno del vissuto, del quotidiano, delle domande dei nostri uomini, cioè di tutti quelli che ad oggi, in questi ultimi due anni, ci hanno scritto, chiamato, richiesto in vario modo e alle cui richieste non siamo riusciti sempre a dare giusta risposta per motivi di tempo, per mille motivi sostanzialmente. Questa piccola rubrica che abbiamo immaginato cercherà di essere il più possibile calato nella realtà quotidiana. Noi oggi facciamo sempre più in termini di ricerca studi che chiamiamo real life, cioè quelli che proprio traggono le proprie informazioni dalla quotidianità, dal fatto che un malato venga in ambulatorio, in ospedale, venga operato con una specifica problematica nel tentativo di dare risposta a quella. Si canta, Deborah. Con la Mimì. Sì, abbiamo già cantato a Genova tantissimo, infatti. E abbiamo Giuseppe da Milano a cui chiediamo se vuole essere lui ad inaugurare il nostro spazio Piccolo Grande Uomo. Giuseppe, ci sta? Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, molto bravi tutti. Mi chiamo Giuseppe, da Milano, ho 56 anni, solitamente faccio una volta all'anno gli esami del sangue, però si ferma lì. Diciamo che altri tipi di esami non ne faccio mai. Sono un commerciale, faccio molti chilometri in macchina durante la settimana e sono molto tempo seduto in ufficio, ecco, quindi faccio poco sport, eccetera. Quindi chiedevo qualche consiglio ad Andrea Salonia. Grazie. Grazie Giuseppe, che apre e ci suggerisce un tema molto interessante di cui ci occuperemo. Sì, questo lo promettiamo. Assolutamente, in modo molto sì. strutturato. Questo perché il fatto di fare molti chilometri in macchina è realmente il motivo per cui oggi siamo qui a raccontarcela, tra sì. virgolette, perché ricorderai, Nicoletta, che noi iniziamo tanti anni fa, o meglio un paio di anni fa, pensando a questa trasmissione con l'idea che, andando avanti e indietro in taxi, qualcuno ci avesse detto: ma questa professione è più a rischio di altre. Ed in effetti chi sta tanto seduto, a vita sedentaria e quant'altro, è più a rischio degli altri. Se vogliamo dare una risposta al nostro amico, cosa deve fare e se ci sono delle attenzioni, delle precauzioni, esatto. Uno stile di vita in qualche modo che può compensare. Partirei questo. Proprio dall'idea dello stile di vita. Oggi, se vogliamo, tutte le associazioni che fanno della scienza il proprio mestiere partono dalla considerazione di considerare, scusate il gioco di parole, lo stile di vita come elemento imprescindibile, tale per cui prima ancora di andare a fare una qualunque terapia o di suggerire un qualunque farmaco, vadano modificati quelli che sono gli aspetti di vita o modalità erronee oppure fondamentalmente alterazioni dello stato di vita generale. Questo cosa vuol dire? Che in un soggetto che abbia una vita sedentaria, ad esempio, si va sempre a proporre un'attività fisica regolare che deve essere però assolutamente connaturata alle sue possibilità e assolutamente giusta e in equilibrio con quelle che sono le sue reali disponibilità di tempo e le caratteristiche fisiche. Non andrò mai a suggerire a un 56 anni di cominciare a fare il podista come avrebbe potuto fare a 30 anni, perché sarebbe sbagliato non già perché non sarà nella condizione di farlo, ma perché i suoi legamenti, le sue ginocchia e quant'altro non saranno in grado di sopportarlo. Al pari, fare gli esami del sangue è già un'ottima modalità per iniziare a farsi bene e a farsi del bene. Perché? Perché spesso, purtroppo, abbiamo patologie dello stato generale di salute che non danno immediati segni di sé, ma che vengono rilevate appunto con quella che abbiamo detto prima essere una prevenzione secondaria, facendo degli esami, tra cui gli esami del sangue. Tra gli stili di vita, l'alimentazione, è facilissimo che le persone vengano in ambulatorio dicendomi fondamentalmente: io non mangio questo, questo e quest'altro, io non faccio il dietologo, ma ci sono fior fiori di specialisti e di eminenti professionisti che fanno questo del loro mestiere, e questo è fondamentale. Banalmente, qui potremmo ripeterlo 100 volte, qual è la prevenzione prima? Eliminare quelli che sono fattori di rischio. Fumo di sigaretta, eccesso di tipo alcolico, il che vuol dire, attenzione, sono stato recentemente invitato a parlare di questo in Cina, alcuni giorni fa. Un bicchiere di vino rosso al giorno, che contiene tra le altre cose una molecola che si chiama resveratrolo, è tipicamente utilizzato anche con funzione anti-aging, il che non vuol dire né che se non lo bevo invecchio più precocemente, né che possa permettermi di berne di più, 10 bicchieri. Perché questo diventa ovviamente lesivo. Poi non parliamo di tutte le sostanze illecite. Oggi purtroppo, e questo è un dato difficilmente rilevabile, ma la prevalenza di persone che fanno uso di sostanze illecite, faccio riferimento a, ad esempio, gli stupefacenti, è altissima. Come pure nel mondo dello sport, purtroppo, io faccio riferimento all'attività della palestra, la possibilità che vengano mal utilizzate sostanze che sono anabolizzanti, cioè ingrossano i muscoli, è purtroppo dato di fatto. Abbiamo dedicato una puntata, la trovate naturalmente nell'archivio di Salute Uomo. Allora, esatto. Quindi scriveteci, potete anche lasciarci un WhatsApp, anche vocale una mail, adesso si può, vero? Mandare, sì. Si può mandare. Quindi. Allora, prima di chiudere, appuntamenti, ottobre rosa, domani inizia l'ottobre rosa, un mese che dovrebbe durare 365 giorni, perché la prevenzione, l'informazione e l'attenzione alla nostra salute e al benessere dovrebbero essere una regola di vita, durare tutta la vita. Lunedì ne parleremo insieme a tanti esperti. Nel frattempo potete condividere con noi le vostre storie. Io mi rivolgo alle donne che hanno avuto una diagnosi e hanno affrontato la malattia, ma anche a tutti coloro che hanno accompagnato, una sorella, un'amica, le hanno dato sostegno, sono stati un appoggio nei momenti difficili, hanno condiviso questo percorso, sono stati proprio compagni di viaggio. Scriveteci, perché insieme a Deborah vorremmo fare una sorta di diario collettivo. Sì. Posso aggiungere, scrivete anche voi maschietti, noi abbiamo nel nostro sito Salute Uomo una piccola sezione dedicata agli uomini raccontano di sé, fatelo in modo totalmente anonimo, raccontateci in tre righe quello che vi è successo, si chiama oggi medicina o letteratura in medicina o medicina letteraria, questo ci permette sostanzialmente di andare a descrivere in modo molto semplice concetti che magari li hanno impegnato in modo non solo fisico ma anche emotivo. Infatti questa iniziativa è rivolta naturalmente alle donne, ma nel compagno, in chi ha accompagnato la donna che ha affrontato il tumore, quindi una diagnosi, la terapia, vorremmo coinvolgere anche i loro compagni, le loro compagne, e far parlare anche gli uomini che spesso di fronte alla malattia della loro compagna rimangono molto in qualche... Poi domani la prima giornata mondiale dell'orticaria, parliamo del una tra le più frequenti e comune forme di malattie dermatologiche. Anche in questo caso vi mettiamo a disposizione i nostri esperti, così il professor Annettis del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Allergiche e Immunologiche all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bari si è reso disponibile a dare un parere sulle foto che ci invierete a Cuore Denari. Naturalmente non sostituisce la visita medica. Per tutte le informazioni sull'orticaria, di cui naturalmente ci occuperemo nel corso della settimana, potete andare sul sito La Pelle Conta e trovate tante indicazioni anche dei centri di riferimento. E mi raccomando, stasera, Andrea, non possiamo dimenticare la notte dei ricercatori. La ricerca è sicuramente un tema che ci sta particolarmente a cuore. Poche cose come la ricerca aiutano la medicina a progredire. Ringraziamo Andrea Salonia, che è sempre è sempre un grande esperto. Ringraziamo anche tutto lo staff tecnico e in redazione per l'aiuto che ci viene così generosamente elargito in trasmissione. Nicoletta, noi torniamo lunedì, direi di augurare a tutti i nostri ascoltatori un buon fine settimana. Ci sto. A lunedì, a presto.